24 mattino. L'Italia si desta. Buongiorno, buongiorno all'Italia, sono le 7:20 e starete ancora con me, sono Gianfranco Fabi per oggi al posto di Alessandro Milan che tornerà comunque domani in questa settimana prenatalizia. Adesso faremo daremo un po' una scorsa ai giornali, poi alle 8:15 parleremo con Massimo Mucchetti, vice direttore del Corriere della Sera, autore di un libro intervista con Cesare Geronzi, un banchiere e uno dei più grandi banchieri italiani, un titolo si intitola Confiteor, ma parleremo con Mucchetti soprattutto dei temi finanziari, di come la finanza in Italia sta cercando di affiancare, se possibile, le potenzialità di crescita economica. E sulle prospettive politiche parleremo poi nella seconda parte del programma delle 8, dalle 8:30 alle 9, parleremo di Germania e come la Germania può influenzare le elezioni italiane, di come la Germania influenza la politica europea. Parleremo con alcuni importanti ospiti che ci aiuteranno appunto a capire come qual è la logica della presenza della Germania, qual è la politica tedesca, quali sono le prospettive della stessa Germania di fronte alle elezioni che anche in Germania si terranno però in autunno, invece in Italia si terranno sicuramente in primavera, e proprio sulle prospettive elettorali sono le aperture di tutti i giornali di oggi. La proposta di Monti per il voto è il titolo del Corriere della Sera. Il premier incontra Napolitano, nessuna decisione, ma possibile il suo nome sui simboli. Non sarà in lista l'ipotesi di un programma da offrire ai partiti. Questo è quanto afferma il Corriere della Sera, quindi un'ipotesi di un Monti che, essendo peraltro senatore a vita, non si presenta nella competizione elettorale direttamente, ma sponsorizza in qualche modo gli altri partiti che vogliono appunto sposare questa sua candidatura alla presidenza del Consiglio. Ecco, è un'ipotesi ovviamente tra molte altre che ci sono. L'Unità afferma: Mario Monti vuole correre, sta lavorando a una sua lista, Napolitano fiera carezza. Quindi un'ipotesi completamente diversa, quella di una lista presieduta proprio da Monti, con l'esplicita volontà appunto di entrare in campo politico, non solo di appoggiare dall'esterno delle liste. E la discesa in campo di Monti è anche il titolo della Repubblica. A giorni la decisione, Napolitano dopo l'incontro al Quirinale tocca a lui fare chiarezza. Il Cavaliere 1:20 a Canale 5, in cui dice: se vinco io, via l'IMU. Il premier tentato da una sua lista, monologo elettorale di Berlusconi in TV è bufera. Ecco, questi sono in fondo anche il tema di ieri questo lungo colloquio con Barbara D'Urso a Canale 5 fa molto discutere i giornali, ovviamente con l'intento da una parte di criticare, ma dall'altra appunto di sottolineare come la campagna elettorale sia stata già aperta, anche se lo stesso Berlusconi non ha sciolto, come non aveva sciolto nella conferenza stampa che aveva fatto alla presentazione del libro di Vespa, non ha sciolto le riserve sul fatto appunto se sarà lui, se sarà Alfano, se sarà magari Mario Monti a presiedere, come lo stesso Berlusconi vorrebbe, le liste per le nuove elezioni politiche. Quindi ecco, in primo piano questa ipotesi. Sul Sole 24 Ore invece il tema è quello del fisco, uno scontrino fiscale su tre nascosto al fisco. La lotta all'evasione fiscale è una lotta difficile, una lotta che continua, la lotta che il Presidente del Consiglio, come nota Salvatore Padula, aveva più volte sottolineato come essere una guerra. E scrive Salvatore Padula: tra pochi giorni si chiuderà un anno durante il quale, insieme a spread, rating, crisi del debito e recessione, anche il tema della lotta all'evasione fiscale è via via diventato un costante refrain. Era metà agosto quando il Presidente del Consiglio, in vacanza in Engadina, parlava per la prima volta di un'Italia in stato di guerra contro chi non paga le tasse. Un'immagine forte che Mario Monti ha utilizzato poi in molte altre occasioni, rincarando persino la dose, da ultimo proprio qualche giorno fa. costruita anche per ribadire e rilanciare l'impegno a contrastare l'illegalità che il governo aveva preso sin dall'insediamento. Un messaggio, peraltro, reso subito tangibile a tutti con il primo blitz nelle strade dello shopping e della Movida, quello di Cortina d'Ampezzo, seguito da numerose operazioni simili in tutta Italia, con i finanzieri e i controllori del fisco che praticamente in diretta televisiva spulciavano ricevute e scontrini di negozianti, ristoratori e piccoli artigiani. E ancora Salvatore Padula sottolinea, proprio il titolo è «Manca ancora una strategia», come sia necessario tuttavia andare oltre la logica dei blitz, andare oltre la logica dei controlli, che comunque sono importanti perché, come appunto diceva, al sud il 50% dei controlli dà esito positivo, quindi non si emette dello scontrino nel 50% dei casi. Ma conclude il suo editoriale sul Sole 24 Ore Salvatore Padula: oltre al blitz restano solo i cavilli di leggi e circolari, si potrebbe dire. È quello che Raffaello Lupi, un grande esperto di sistema fiscale, definisce il potere della burocrazia fiscale. Non solo si devono compiere adempimenti spesso complessi, inutili, incomprensibili, ma al fisco basta poco per trovare l'evasore, visto che nessuno si può salvare dalle sempre più diffuse contestazioni interpretative. Questa è anche la prova più evidente di quanto sia difficile fare davvero la lotta all'evasione, senza cedimenti ma anche senza prevaricare i contribuenti. Gli strumenti ci sono, conclude Salvatore Padula sul Sole 24 Ore, ma forse l'amministrazione deve ora saper trovare lo slancio per un vero salto di qualità. Quindi ecco, la lotta all'evasione è una lotta fondamentale, ma è importante che sia una lotta che non sia solo un proclama o sia solo un alibi per cercare di coprire con i presunti introiti dell'evasione le nuove spese dello Stato, ma sia qualcosa che faccia pagare il dovuto a tutti. Ecco, in questa prospettiva si può sottolineare come il Papa, lo fanno quasi tutti i giornali, con minore o maggiore rilievo, bisogna dire, ieri nel suo appello per l'Angelus abbia chiaramente indicato la necessità di una giustizia fiscale e di una onestà politica. Lo afferma in Il Giorno, per esempio, il quotidiano nazionale, Il Giorno, Il Resto del Corriere della Nazione: appello del Papa ai politici, le tasse siano giuste. E Benedetto XVI: chi ha incarichi pubblici non rubi, chi ha potere e opera nelle istituzioni, afferma appunto Il Giorno, deve avere come punti di riferimento l'onestà e il rispetto per gli altri, innanzitutto non deve rubare, e anche nel prelievo fiscale ai cittadini non deve esigere nulla più di quanto è stato fissato. Risuonano come un forte richiamo a chi occupa incarichi pubblici, specie nell'attuale contesto politico e sociale, le parole pronunciate ieri da Benedetto XVI all'Angelus: le cose andrebbero meglio se ciascuno osservasse queste regole di condotta, ha detto il Papa in modo molto eloquente. Ed è ancora Il Giorno che scrive: in un paese provato dagli scandali, dalle ruberie, dalle malversazioni di denaro pubblico e anche alle prese con una pesantissima pressione fiscale, specie in questi giorni di scadenza dell'IMU, il pontefice ha lanciato un significativo appello alla conversione e alla rettitudine, un'indicazione questa che vale specialmente, e qui sono le parole del Papa, specialmente per chi ha maggiori responsabilità. Quindi ecco, il richiamo del Papa sull'onestà in politica e sull'onestà da parte dei cittadini, ma anche sulla giustizia fiscale, su un fisco che sia giusto, che sia corretto, che non opprima appunto con le tasse i cittadini, e questo è importante. E a proposito di oppressione fiscale, il Secolo XIX dà conto, come anche gli altri giornali, della battaglia di Gérard Depardieu in Francia. Addio Francia delle tasse, Depardieu va via tra gli insulti, il premier è patetico e lui strappa il passaporto. Chi siete per giudicarmi? L'attore ripara in Belgio per non pagare il 75% di tassa sui redditi sopra il milione, la tassa voluta da nuovo governo, dal nuovo presidente della Repubblica Hollande. E Samuele Cafasso racconta appunto di questa vicenda. Depardieu, Obelix si è arrabbiato, invece di spaccare tutto però si è limitato a strappare il passaporto francese e riparare in Belgio. dove pagherà meno tasse. La Francia socialista perde il suo attore più popolare sull'altare del fisco, l'uomo che ha impersonato sul grande schermo Cyrano de Bergerac e girato più di 170 altri film, e se la svigna a gambe elevate per non pagare il 75% sui redditi sopra i milioni di euro. La misura simbolo della gauche di François Hollande al potere nella stagione della grande recessione. Gérard Depardieu e ancora Samuele Cafasso sul secolo XIX, Gérard Depardieu va via tra le polemiche e gli insulti di un paese dove riparare all'estero per risparmiare un po' di soldi non è una furbata, ma è un atto di alto tradimento. A mettere alla berlina l'attore è stato niente meno che il primo ministro Jean-Marc Ayrault, considerato peraltro dai francesi come uno dei premier più incolori degli ultimi anni. Questa volta ha tirato fuori gli artigli, definendo abbastanza patetica la decisione di Depardieu di andare a vivere a Nehin, un paesino belga vicino al confine, diventato un luogo di fuga dorata appunto dei francesi in cerca di sollievo fiscale, il tutto dopo aver messo in vendita la sua villa di Parigi per la cifra astronomica di 50 milioni di euro. Un deputato socialista ha rincarato la dose proponendo una legge che tolga la nazionalità a chi fugge al fisco nazionale. Ecco, quindi in questo caso una pressione fiscale certamente elevata come quella imposta da Parigi sui ricchi, come quella che vorrebbero anche che vorrebbe l'estrema sinistra anche in Italia, che sta provocando appunto questa fuga di Depardieu dalla Francia, il grande attore che è conosciuto soprattutto per Obelix. Ma è l'ora di fermarci un attimo, diamo spazio al tempo e ad altre cose. 24 mattino. Rieccovi con Gianfranco Fabi per questa seconda parte dedicata appunto alla rassegna stampa, alla lettura dei giornali. Abbiamo parlato della prima parte di fisco, anche con il titolo del Sole 24 Ore dedicato appunto al fatto che uno scontrino su tre è nascosto al fisco. Ma il Sole 24 Ore vi ricorda anche che oggi è l'ultimo giorno per pagare l'IMU. L'IMU chiude i conti con il saldo, ma in caso di ritardi o di errori si apre subito da domani la chance del ravvedimento operoso, che per il saldo sarà nella versione sprint con una riduzione consistente delle sanzioni sui versamenti non effettuati o insufficienti. Tutte le regole appunto sul Sole 24 Ore per chi non dovesse fare in tempo di pagare entro oggi l'IMU. Da un'inchiesta appunto sempre del Sole 24 Ore emerge che l'Italia è tra i paesi europei al top per peso del prelievo sul mattone. La graduatoria è stilata in base a un indice sintetico ponderato che considera le patrimoniali, le imposte sui costi di compravendita, sui beni da rivendita e sui canoni di affitto. E un altro titolo del Sole 24 Ore: che per metà del mondo il rating è in zona spazzatura, cioè un rating bassissimo, equivalente appunto ai titoli quasi inesigibili, e ci sono 68 paesi che hanno incassato il livello junk, cioè spazzatura, da parte di almeno un'agenzia di rating, 48 da almeno due, e 24 fanno l'emplane, mettendo d'accordo tutti e tre, con diversi gradi di rischio fino alla malattia grave già diagnosticata per Grecia, Argentina, Belize e Pakistan. E l'Italia non è a rischio, un rating ancora sufficiente. La Spagna si trova invece, sottolinea il Sole 24 Ore, a un passo dal fossato. Ecco, questi sono i titoli del Sole 24 Ore. Torniamo a parlare della politica, di politica italiana, di politica delle prospettive che si hanno, che abbiamo di fronte per le prossime elezioni, per il prossimo governo. Ecco, tra le prospettive, una delle più bizzarre che sta emergendo, la cita peraltro anche Ivo Diamanti, come dirò tra poco, è quella della staffetta, l'ipotesi di una legislatura in cui, come è avvenuto con Rivera e Mazzola in lontani campionati del mondo, o come è avvenuto anche per la Banca Centrale Europea tra Duisenberg e Trichet dopo l'avvio, che a metà del mandato chi è a capo appunto del governo possa lasciare la mano, invece già concordando prima, un'altra persona, una staffetta in pratica. Ma questa è sottolineato per esempio dall'Unità come una delle ipotesi più assurde, che la staffetta a Palazzo Chigi tra lo stesso Monti e Pierluigi Bersani. Secondo questa bizzarra tesi, scrive l'Unità, il centro e il centro-sinistra dovrebbero accordarsi dopo il voto sulla base di uno scambio un po' Guido io il governo e un po' lo guidi tu. La memoria torna alla legislatura 83-87, non a caso finì male quando Bettino Craxi ti trovò a cedere il testimone ciriaco De Mita in ossequio a un precedente accordo e fece il gesto dell'ombrello. Ora nessuno dubita dell'onestà di Monti, che manco a dirlo dovrebbe correre nella prima frazione della staffetta. Il punto è che l'intera congettura è un'offesa al buon senso e ai cittadini. Il porcellum fa schifo, è un delitto che sia rimasto in piedi con i suoi imbrogli e le sue storture. Apro una parentesi, ma questa è colpa della classe politica. Chiudo la parentesi e scrive ancora l'Unità, ma da una trincea non si può retrocedere. La guida del governo è affidata al leader del partito più votato, come accade in ogni altro paese occidentale, qualunque sia il sistema elettorale. Direi che si può essere d'accordo con questa ipotesi di appunto dire che di staffetta non si dovrebbe nemmeno parlare. Le elezioni sono fatte per scegliere chi deve governare il paese. Tanto meglio se chi governa il paese può contare su una maggioranza solida e non solo su una maggioranza risicata, tanto meglio se questa maggioranza rappresenta il più possibile gli interessi condivisi di tutti, quelli che potremmo chiamare il bene comune, e non solo gli interessi propri, come spesso si dice. E allora cosa potrebbe fare il governo? Lo suggerisce Francesco Grillo sul Messaggero, un'agenda in 5 punti per evitare il declino. Ovviamente non ci si riferisce a fermare il declino, la benemerita iniziativa di Oscar Giannino, che tra poco tornerà a questi microfoni per appunto fondare un movimento che cambia un po' le regole della politica. Però ecco, vediamo questi 5 punti di Francesco Grillo sul Messaggero. In primo luogo, continua a essere indispensabile una modifica drastica della distribuzione della spesa pubblica tra poste diverse, e in particolare bisognerà spostare risorse dal supporto del passato all'investimento in futuro. E nota Francesco Grillo, nonostante che proprio sulle pensioni il governo abbia fatto la sua riforma più coraggiosa, il paradosso continuerà ad essere enorme anche per i prossimi anni. Spendiamo in pensioni 5 volte di più di quanto non investiamo nella scuola di ogni ordine grado, università e ricerca, più di qualsiasi altra nazione, e se solo riallineassimo la spesa italiana a quella dello Stato con il più avanzato welfare del mondo, la Germania, potremmo risparmiare 80 miliardi di euro all'anno. Questo è il primo punto di Francesco Grillo, una riforma delle pensioni che porti a maggiore equità, che tolga le prospettive appunto di pensioni d'oro e che dia maggiori risorse, magari anche tagliando le spese superflue o le spese che sono poco efficaci, maggiori risorse alla scuola, all'università e alla ricerca. Il secondo punto, indicato da Francesco Grillo sul Messaggero, è necessario che chiunque gestisca risorse pubbliche risponda dei risultati della propria azione nei confronti dei cittadini. Il problema più grosso, infatti, non è il costo della politica e forse neanche la disonestà di chi si occupa di risorse pubbliche, ma che non abbiamo nessuna idea di quanto renda un ospedale, una scuola o un ministero che nessuno ha pagato o selezionato sulla base di una prestazione misurabile, e che dunque gli stessi fenomeni di corruzione vengono identificati solo quando essi sono diventati patologici ed è troppo tardi per evitarne il danno. Il terzo punto, il fisco. Sul fisco, ancora Francesco Grillo sul Messaggero, va stabilito con chiarezza definitiva che tutte le entrate addizionali create dalla lotta all'evasione devono essere destinate a ridurre il peso dell'imposizione fiscale rispetto al PIL. E non meno importante, il quarto punto, è ricostruire un rapporto di correttezza tra Stato e cittadini anche degli stessi processi di controllo e di recupero di imponibile che in vaste aree del paese, soprattutto al nord, ha prodotto rivolte e suicidi. Da una parte bisognerà riconoscere gratificazioni significative legate alla capacità delle agenzie dello Stato di colpire chi crea per se stesso un vantaggio competitivo evadendo, ma dall'altra, se vogliamo tornare a standard di civiltà, bisognerà trovare il modo per riconoscere una compensazione significativa ai contribuenti costretti a difendersi da errori. Infine, il quinto punto è l'Europa. Anche qui non si tratta solo di stabilire se essere più o meno euroentusiastici o euroscettici, ma di fare scelte precise a partire da quelle relative alla definizione del budget comunitario nel prossimo anno. Ecco, a conclusione di questo editoriale di Francesco Grillo sul Messaggero, per riuscirci però bisognerà spazzare via antiche certezze, convincendo chi è stato finora escluso a partecipare, chi ha vissuto di privilegi, che il cambiamento non ha alternative. Sarà necessario dire la verità e suscitare speranza. potrebbe riuscirci un professore di economia. E il riferimento esplicito è ovviamente a Mario Monti, che dovrebbe portare in porto questo processo, sicuramente ambizioso, un processo che porta indubbiamente di fronte alla necessità di manovre ulteriori che non sempre possono essere gradevoli soprattutto per chi ha mantenuto fino ad ora dei privilegi. Ma Monti entrerà Ivo Diamanti, sociologo molto noto e molto capace di analisi azzeccate, spera che resti fuori e lo spiega nel suo articolo sulla Repubblica di oggi, e ne leggiamo le conclusioni. Ma se Monti, per citare Giorgio Scalfari, cadesse in tentazione e si candidasse con il centro, diverrebbe l'alternativa a Bersani. In particolare, se Berlusconi facesse un passo indietro, difficilmente potrebbe domani allearsi con il centro-sinistra, tantomeno divenire premio di una coalizione di unità nazionale, se non nel caso che nessuno al Senato ottenesse la maggioranza dei seggi. Ma Monti per questo dovrebbe tifare per la Lega e il Cavaliere nelle regioni del Nord. Qui sembra che Ivo Diamanti, apro la parentesi, sia abbastanza scettico su questa possibilità. C'è infine, conclude ancora Ivo Diamanti sulla Repubblica, l'ipotesi avanzata ieri che Monti promuova una propria lista personale in autonomia da tutti gli altri. In questo modo si metterebbe davvero in gioco. Tuttavia per questo rischierebbe molto. Alcuni sondaggi recenti, SVG per esempio, gli attribuiscono intorno al 6%, che salirebbe al 15%. Però appunto, insieme alle forze di centro, troppo poco per coltivare ambizioni di premiership, al contrario abbastanza per comprometterle. Per continuare a svolgere un ruolo di primo piano nei prossimi anni, penso che il professore debba dunque rifiutare apertamente l'offerta, ma anche i voti del Cavaliere, prendere esplicitamente le distanze da lui e quindi decidere se, come e con chi scendere in campo. Ma solo restando fuori, conclude Ivo Diamanti, potrebbe occupare in seguito ruoli istituzionali importanti. E questo è Ivo Diamanti sulla Repubblica. Diamo la linea al traffico. Eccoci ancora con la lettura dei giornali. Lasciamo stare per questa ultima parte la politica, i Monti, i programmi, le ipotesi e le prospettive. Sarà chiarezza nei prossimi giorni, sapremo dove potremo andare, per chi votare. Guardiamo un po' un attimo a Natale con i suoi regali, e sottolinea la Repubblica con un articolo di Maria Novella De Luca: regali da adulti ai figli, i trucchi di papà Peter Pan. Il tablet per bambini, ad esempio, stanno sbancando il mercato dei doni per l'infanzia fin dall'età prescolare, simbolo di una tecnologia immaginata per i grandi ma che fa impazzire i piccoli. Oggetti comprati per i figli ma pensando ai genitori, cioè intertransgenerazionale. I tablet hanno ovunque il segno più nelle vendite, più 5%, più 10%. Questa è la prima cauta stima degli acquisti in un assai avaro Natale, che vede invece in flessione anche il resistente baby mondo dei giocattoli, già in difficoltà per tutto il 2012, meno 2% dicono le statistiche ufficiali. E conclude Maria Novella De Luca. Anna Oliverio Ferraris, docente di psicologia dello sviluppo alla Sapienza di Roma, dice però che il fenomeno con altra pelle esiste da tempo. Oggi ci sono i tablet, ma ieri c'erano i trenini elettrici. Quanti padri ho visto comprare sofisticati modelli di locomotive tedesche raccontandosi che li avrebbero costruiti insieme ai figli. In realtà erano modellini che piacevano a loro e i bambini si adattavano, perché il giocattolo è legato allo spirito del tempo. Se i genitori hanno l'iPad, i figli chiedono il baby tablet, dice Oliviero Ferraris, ma non è detto che sia davvero il loro desiderio, e con la tecnologia bisognerebbe essere cauti. Sono mezzi straordinari, aiutano la mente, sviluppano l'intelligenza, ma possono isolare, rendere dipendenti e sedentari. Credo che gli adulti, quando comprano un regalo, debbano staccarsi da sé e guardare la vita con gli occhi di un bambino. È quello che dovremmo forse ricordare, commentando appunto questo articolo di Maria Novella De Luca sulla Repubblica, ricordare appunto che i regali si fanno per gli altri, non per se stessi, anche se è molto gratificante darli, ma è anche gratificarli poi usare i regali altrui. Ma i bambini vanno guardati con gli occhi dei bambini, bisogna forse recuperare questa capacità di non volere ad ogni costo che subito i bambini diventino simili ai grandi, che facciano e che abbiano i giochi e le abitudini dei grandi. L'evoluzione vuole, in fondo, vuole la sua velocità, vuole il fatto che si rispettino appunto le condizioni in cui ognuno è. Non pretendiamo troppo dai bambini, cominciando non pretendiamo che essi abbiano i nostri stessi interessi. E oggi è il giorno del maxi concorso per insegnanti, un maxi concorso per insegnanti che può ringiovanire la scuola, afferma Dario Di Vico sul Corriere della Sera. Il solo fatto che si torni ad assumere tramite concorso, scrive Dario Di Vico, è una discontinuità che va salutata con favore, perché chiusa la parentesi lunga 14 anni apre forse la strada a una normalizzazione. Il forse è d'obbligo, perché tutto il sistema scolastico italiano è sotto stress e anche vittima di dolorose restrizioni di budget. Quando gli 11.542 vincitori del concorso prenderanno possesso della loro cattedra, avremo, scrive Dario Di Vico sul Corriere, dunque un effetto statistico di ringiovanimento, seppur relativo. Uno su due dei 321.000 candidati ha un'età che già oggi veleggia tra i 36 e i 45 anni. Per quanto riguarda le differenze di genere, il concorsone forse accentuerà ancora più la femminilizzazione della scuola italiana. Siamo già il paese con il maggior numero di donne insegnanti e questa caratteristica dovrebbe accentuarsi, visto che l'80% dei candidati è di sesso femminile. In passato, e conclude Dario Di Vico sul Corriere della Sera, la femminilizzazione della docenza era stata interpretata come un effetto del combinato disposto di una maggiore possibilità di conciliare famiglia e lavoro con una minore competizione maschile per occupare quei posti. Oggi, nel quinto anno della grande crisi, evidentemente quei ragionamenti delle donne nel concorsone si spiegano con una maggiore mobilitazione individuale, in linea con ciò che avviene nel resto del mercato del lavoro. Ecco, un mercato del lavoro che resta sicuramente difficile, ed è significativo che lo stesso Corriere della Sera porti nelle pagine interne la storia di un'azienda che aiuta le lavoratrici a diventare mamme. 10 nascite all'anno grazie agli orari flessibili. L'articolo è di Elvira Serra ed è da Mantova, la sede è via Argentina Altobelli, sindacalista. Niente più appropriato per la cooperativa Sanitad, 350 soci specializzati nei servizi sociosanitari ed educativi, con una particolarità, anzi due. Le donne sono il 97% e il tasso di fecondità è il più alto d'Italia. Nascono 4 figli all'anno ogni 100 donne in età fertile, contro la media nazionale di 1,39. Qui possiamo ricordare che il tasso che garantirebbe la stabilità è di 2,2. Qui l'Italia è 1,39. In questa azienda e per queste donne nascono 4 figli all'anno. E leggo ancora da Elvira Serra: essere persone che condividono le stesse problematiche aiuta. La conciliazione lavoro-famiglia è il nostro pallino, a cominciare dall'orario flessibile in entrata e in uscita, spiega Monica Ganzerla, presidente da 16 anni, e racconta: altri tempi, mi sono presentata subito dopo la laurea in scienze dell'educazione, era il 1994, mi presero per dei progetti, vedevo che gli altri piangevano se perdevano un appalto, non capivo, il consiglio di amministrazione è tutto femminile, forse un ente pubblico, bisognerebbe invocare le quote azzurre, nessuno del 3% dei soci maschi si è candidato. Comunque il collegio sindacale è misto e che le cose funzionino lo dimostrano i numeri: 9 milioni di fatturato, la Sanitad gestisce 8 centri diurni per disabili, una comunità psichiatrica, offre servizi di assistenza domiciliare e scolastica e ha appena vinto una concessione per una residenza sanitaria del comune di San Benedetto Po, che la terrà impegnata per i prossimi 10 anni. Quindi un'azienda di servizi in cui si è attuata la conciliazione tra famiglia e lavoro, in cui le donne si sentono libere di scegliere e come dimostrano molte statistiche, se le donne avessero la possibilità di fare più figli li farebbero, ma sono molto spesso limitate dalle condizioni economiche, dalle condizioni di lavoro, dalle condizioni sociali in cui vivono. Condizioni sociali, ci avviamo alla conclusione, la letterina di Natale sul foglio, molto molto drastica, letterina di Natale perché al foglio siamo cattivi. Io per esempio, scrive Giuliano Ferrara, credo che le stragi dei bambini nella società ricca e pacificata siano diretta conseguenza della sordità morale con cui abbiamo ratificato l'aborto di massa. La facoltà di scegliere tra la vita e la morte è la compagna segreta della violenza dei tempi e dell'insicurezza riguardo l'essere e il principio di realtà che ne deriva. E ritengo anche utile l'idea di armare i maestri e volontari scuola per scuola, altro che ridurre a sudditi incapacitati a portare armi i cittadini americani governati dalla Costituzione liberale più longeva e più forte del mondo, che prevede quel diritto in forma tassativa. Ecco, molto drastico questo passaggio di Giuliano Ferrara sul foglio, che richiama sul fatto, come alcuni dicono, che appunto a sparare non sono le armi ma sono gli uomini, che bisogna soprattutto cercare di guardare alla realtà morale di una società e di non appunto di non pensare che solo dei gesti formali possono risolvere il problema, ma che solo con una nuova etica, con un'etica della vita, si può guardare in avanti con fiducia e affrontare anche questi drammatici temi come quello della strage in America. E concludo citando Francesco Alberoni sul Giornale: non guardiamo allo Stato ma dentro noi stessi, è un richiamo appunto a fare ognuno il proprio dovere. Grazie, ci risentiamo alle 8:20.